di Amnesty International, ho solleticato la signora Saleh sul fatto che il 7 settembre si vota e quindi la campagna elettorale, che si surriscalda a meno di un mese dal voto, forse utilizza anche, come al solito, come spesso succede, il dossier migranti per portare voti da una parte o dall'altra. Ascoltiamo. Unfortunately, asylum seekers, refugees, have long been, you know, a topic for political point scoring, a way, you know, a political rhetoric, a way for parties. Sfortunatamente, dice Saleh, il problema dei richiedenti asilo e dei rifugiati è sempre stato un argomento scottante per la politica, una leva per raccogliere voti. Per quanto riguarda Amnesty, qualunque sia il partito che vincerà le elezioni, avrà la responsabilità di occuparsi di queste persone e di tutelarne i diritti umani. All these, whatever party comes into power, they have a responsibility to these refugees and to their human rights to make sure that these are protected. Fra l'altro, tra gli obiettivi di questa legge c'è quella di combattere gli smuggler, i trafficanti di uomini, quelli che fanno fare questi viaggi incredibili appunto ai migranti. Sentite cosa dice il primo ministro australiano, appunto Kevin Rudd, in proposito. My message to asylum seekers around the world is simple. Under the arrangement with Papua New Guinea, if you come here by boat, you'll be sent to Papua New Guinea. I also have a message for the people smugglers of our region and the world. Your business model is over. Your business model is over. Il vostro modello di business, il vostro modo di fare affari è finito. Ottimistico, Kevin Rudd, funzionerà questa, lo chiamano offshore procedure, cioè questa esternalizzare la procedura dei richiedenti asilo funzionerà. Quello che è certo è che si è attirato gli sterali di UNHCR, che ha puntato il dito, di Amnesty International, che stiamo sentendo. E allora, siccome a Sara Saleh, appunto, di Amnesty Australia, ho chiesto quanto, al di là, come dire, delle implicazioni legislative e dei diti puntati, quanto funziona questa soluzione. I would just like to draw your attention to the Refugee Convention, which is basically international law and which Australia is a signatory to. Sara Saleh dice: vorrei portare l'attenzione sulla Convenzione sui rifugiati, che è una legge internazionale firmata anche dall'Australia. Il Refugee Act prevede che i richiedenti asilo e chiunque sia in fuga da guerre, violenze, persecuzioni abbia l'assoluto diritto, indipendentemente dagli arrivi di massa dei migranti, di arrivare in Australia e richiedere asilo. Noi abbiamo il dovere di prendere in considerazione la loro domanda e decidere se hanno diritto all'asilo o meno. E dice, aggiunge, statisticamente 9 richiedenti su 10 di solito ce l'hanno. Gli smuggler, dice Sara Saleh, esistono perché esistono persone disperate che non hanno alternativa. Questa soluzione non risolve il problema degli smuggler per nulla. E così risponde al primo ministro australiano. E poi in qualche modo si ricollega al discorso che facevo io, che la gestione dell'immigrazione irregolare è una gestione che va affrontata globalmente. Lei dice, è un problema globale, le responsabilità vanno condivise a livello regionale e internazionale, in modo che il modo che ha scelto l'Australia di dirimere questa questione non solo non funziona, ma soprattutto mina la nostra autorevolezza nella regione e impedisce ogni soluzione. Our leadership in the region and undermines any genuine solution. The way to address il modo di affrontare il problema, continua Sara Saleh, è di guardare alle ragioni che spingono le persone a lasciare il proprio paese globalmente, il che significa affrontare il problema prima in Siria, il problema in Afghanistan, in Sri Lanka, che sono le nazioni da cui provengono la maggior parte dei profughi. Si tratta ovviamente di conflitti e problemi che richiedono un piano a lungo termine per essere risolti, in cui tutti globalmente sono chiamati a tutelare i diritti umani. Allora, poi un ascoltatore mi apostrofa dicendo: compagno, ti arrampichi sugli specchi per far passare il tuo punto di vista, invece dovresti fare il giornalista informatore neutrale, capito? Allora, intanto sto riportando quella che è l'opinione di Amnesty International e dell'UNHCR. Sto riportando i fatti. Quando do la mia opinione, dico sempre: questa è la mia opinione. Concordo con quello che ha detto Amnesty International. La risoluzione dell'immigrazione irregolare va affrontata globalmente. Lo dicevo inizio trasmissione: l'Italia, la Spagna e la Grecia sono state lasciate sole per anni dall'Europa nell'affrontare un problema che riguarda tutta l'Europa, perché i migranti che arrivano a Lampedusa non vogliono stare a Lampedusa, vogliono andare in Inghilterra, in Norvegia, in Svezia, eccetera. Poi non capisco su quali specchi mi starei arrampicando. Allora, prima di cambiare argomento, ne tocco uno attiguo. Vi ricordate la vicenda Mission, la docu-fiction Rai? 3 giorni fa ne parlammo, avevamo Azzalini, capostruttura Rai, avevamo Intersos, eccetera. Insomma, su quella trasmissione sollevammo qualche perplessità. Ebbene, la questione è finita ieri in un dibattito parlamentare con un'interrogazione da parte del PDL. Intanto pare che ai potenziali concorrenti sia stato imposto il silenzio stampa da parte della Rai, quindi non è dato sapere se sta evolvendo, in che direzione, se la macchina produttiva va avanti. Il dibattito certo resta vivace, ne daremo conto nei prossimi giorni. Adesso voltiamo pagina perché oggi è un giorno di festa. E no, c'è un altro sms: integrare, ma avete chiesto agli italiani se si vogliono integrare con le più svariate culture oppure è un diktat? No, io non l'ho chiesto, non è l'oggetto di questa puntata, di Nessun Luogo è Lontano, nessun diktat da parte mia, magari, perché no, ci dedichiamo una puntata nei prossimi giorni. Stefano Allievi, hai fretta, buongiorno, subito buongiorno, dentro. Buongiorno, sì. Allora Stefano, ho detto oggi è giornata di festa, perché finisce Ramadan, e Ramadan è per quasi tutto il mondo musulmano, è una festa ed è una giornata di particolare valore. Siccome non sono convinto che noi tutti sappiamo esattamente che cosa significhi e che valore abbia questa giornata, ci aiuti a ricapitolarlo? Beh, è la fine di un mese di digiuno, quindi digiuno dall'alba al tramonto, dal cibo, dalle bevande, dal fumo, dalle sigarette, dai rapporti sessuali, quindi un periodo comunque difficile che viene vissuto con un certo fervore. Il Ramadan è praticato dal 70-80% dei musulmani del mondo, quindi parliamo di oltre 1 miliardo di persone almeno, e che ha un'importanza enorme dal punto di vista religioso, spirituale, perché poi durante il mese di Ramadan molti musulmani vanno anche in moschea tutte le sere o passano a pregare. Nell'ultima settimana in particolare si recita il Corano tutti insieme, eccetera. Quindi ci sono momenti molto forti, è il mese in cui viene anche data da parte dei musulmani la zakah, che è la, diciamo, l'elemosina rituale, quindi dopo una specie di tassa religiosa, ma in realtà un'elemosina su base comunque volontaria, anche se viene calcolata dagli studiosi islamici in maniera abbastanza precisa, e che serve anche poi per condividere, insomma, lo stesso mese di Ramadan con i più poveri, ovvero si fa la rottura del digiuno nelle moschee, chiunque mangia insieme agli altri appunto in moschea al tramonto. E insomma, dal punto di vista sociologico è un momento molto forte, perché è un momento di festa, le famiglie si riuniscono, ma nei paesi musulmani spesso, per esempio, la mezz'ora prima della rottura del digiuno non c'è più nessuno in giro, e dopodiché si ritrovano quasi per miracolo velocissimamente tavoli, sedie per strada, si condivide il cibo. Dal punto di vista dei sociologi è quasi più importante la rottura del digiuno che non il digiuno in quanto tale. La giornata di oggi, in particolare la fine del mese di Ramadan, si riuniscono anche in Italia i musulmani nelle grandi città, soprattutto non solo nelle moschee, ma spesso negli stadi, in campi sportivi, ci si scambiano regali, c'è un po' come il Natale da noi, quindi è un momento effettivamente molto molto forte. Ecco, questo momento di grande e forte socialità si può trasformare, secondo te, visto il momento politico di alcuni paesi, dopo ci andiamo con Ugo Tramballi, penso a Egitto e Tunisia, può essere un momento in cui non solo ci si ritrova, si parla, ma si parla anche di politica e quindi si prende posizione, e quindi forse questa festa di fine del Ramadan, in questo preciso momento politico assume anche altre valenze? Ma questo può succedere laddove ci sono delle condizioni di crisi. Il tema del Ramadan è di tipo spirituale, per cui ci si trova a pregare, però così come accade un po' il venerdì, il giorno della preghiera, no? che in situazioni problematiche dal punto di vista politico è anche il momento in cui si fanno circolare dei messaggi, no? Perché tutti i credenti sono riuniti tutti insieme, quindi si possono mandare messaggi, spesso quando sono situazioni in crisi, in Palestina e altrove, è dopo il venerdì, dopo la preghiera, che i musulmani per esempio fa alcuni musulmani radicali, diciamo così, fanno alcune manifestazioni di piazza e così via, insomma se si scaldano di più gli animi non solo sul piano religioso ma qualche volta anche su quello politico, però non è un dato di fatto generalizzabile riguardo alcune specifiche situazioni e neanche sempre, nel senso che comunque la dimensione sociale e religiosa prevale su tutto. Vedremo se la fine del Ramadan coinciderà con un riaccendersi della crisi egiziana. Lo faremo con Ugo Trabbali del Sole 24 Ore. Intanto grazie a Stefano Allievi, docente di sociologia dell'Islam all'Università di Padova. Non l'avevo detto all'inizio. Grazie come sempre del tuo intervento. Buona giornata, buon lavoro. Arrivederci. Nessun luogo è lontano. Oggi è giorno di festa per i musulmani, gentili ascoltatori, finisce il Ramadan, abbiamo capito meglio la valenza di questa festa che coinvolge anche tanti cittadini in Italia. Quanto questa fine del Ramadan potrebbe assumere anche valenze fortemente politiche e cosa potrebbe segnare in due paesi che ci stanno a cuore, che stiamo seguendo in questi giorni, Egitto e Tunisia? Ne parliamo con Ugo Trabbali, Sole 24 Ore. Ugo, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Grazie, buongiorno e soprattutto a Eid Mubarak a tutti i musulmani che ascoltano Radio 24. Prego. E Ugo, la fine del Ramadan può coincidere in Egitto con un inasprirsi della crisi? I giovani di Tamar Rod hanno detto siamo pronti a passare all'azione, il timore che il weekend che si sta avvicinando possa essere segnato da nuove violenze contro i sostenitori di Morsi. Non mi pare che al Cairo il Ramadan sia stato un mese tranquillo, quindi il Ramadan non è mai una pausa tipo olimpica dei conflitti. Ricordo che quando negli anni '80 stavo a Beirut, non ricordo di aver mai passato un Ramadan tranquillo fra le varie guerre che si combattevano in quegli anni in Libano. Quindi è difficile che possa esserci qualcosa di peggio di quello che abbiamo visto questo mese, però sì, in qualche modo c'è questa possibilità, nel senso che non tanto per il Ramadan quanto per la festa dell'Eid la gente tende a tornare a casa, è la festa più importante dell'Islam, quindi la gente tende a stare in famiglia, quindi può darsi che molta gente che sta in piazza a presidiare quelle zone appunto dei fratelli musulmani decide di tornare a casa, ci sia meno gente a presidiare, anche se dubito, e questo potrebbe essere un'ipotesi, una possibilità. Dopo, a partire da domenica, ogni momento potrebbe essere buono, ma in ogni caso qualsiasi momento i militari e Tamar Rud, che poi in realtà sono dei militari mascherati, perché Tamar Rud li devo ancora incontrare, perché ho incontrato alcuni impreparati, ma principalmente i Tamar Rud sono stati uno strumento dei militari, quantomeno del vecchio regime post Mubarak, che aveva voluto tornare a fare la grande restaurazione. Credo che ci siano alcune serie di difficoltà, perché anche se ci sarà l'Eid, anche se le feste finiranno, dubito che i fratelli musulmani decidano di diminuire la mobilitazione, la loro forza è proprio nella capacità di mobilitazione, e dubito che i militari possano ignorare il fatto che, per quanto sia finita questa prima fase del tentativo di mediazione occidentale, possono appunto provocare decine o centinaia di morti senza tenere conto, perché questo sarebbe se decidessero di sgombrare le piazze, certo. Senza tenere conto della reazione degli americani, degli europei, del resto del mondo arabo. Gli americani continuano a dare ai militari $1.5 miliardi all'anno, appunto direttamente ai militari, senza nemmeno passare per il bilancio ufficiale dello Stato. Non possono non tenere conto di questo i militari. Ecco, Ugo, hai in qualche modo anticipato quella che è l'altra domanda, perché hai parlato della macchina diplomatica statunitense e anche europea, che nell'ultimo tentativo di mediazione si è rivelata per l'ennesima volta inefficace. Perché secondo te Stati Uniti e Europa faticano così tanto a maneggiare, tra virgolette, in termini diplomatici, il dossier egiziano? È perché adesso parlare con i militari è difficile, perché alla fine sono militari e quindi, come dire, un certo lessico, un certo approccio anche diplomatico gli è estraneo? Beh, intanto lo decideremo alla fine della crisi, qual è stato l'efficacia del tentativo di mediazione americano ed europeo, che credo non sia finito semplicemente perché quella prima fase della mediazione sia finita. Però noi dobbiamo tenere conto, quando parliamo dell'Egitto, di qualsiasi altro paese delle primavere arabe, dell'elemento più importante delle primavere arabe fino ad ora. Poi continuiamo a chiamarle primavere giusto così per semplificare, per renderci come sappiamo anche di che cosa stiamo parlando, anche se la definizione forse oramai è impropria. L'elemento più importante delle primavere arabe è che per la prima volta nella storia del Medio Oriente moderno i protagonisti non sono più gli americani, gli ex coloni europei, i russi, i cinesi, la guerra fredda, l'eredità della guerra fredda, ma sono i paesi, i governi, i leaders, forse anche i popoli di quelle stesse regioni. Quindi sulle primavere arabe, su qualsiasi vicenda di questa grande vicenda dei cambiamenti medio orientali, contano di più i militari egiziani, gli iraniani, i turchi, i sauditi, i qatarini, più di quanto non contino, come tradizionalmente succedeva, gli americani, gli europei. Quindi in qualche modo comunque è cambiato, il mondo sta cambiando, quindi la mediazione, la forza di mediazione, la capacità di persuasione degli Stati Uniti d'Europa non è più quella di prima e sarà sempre meno, e forse questo è un dato positivo tutto sommato, anche se tendiamo sempre, come dicevamo anche l'ultima volta che ci siamo sentiti, a rimproverare gli americani se non fanno pesare la loro forza. Sì. E a rimproverare gli americani se invece fanno pesare la loro forza. Sì, dice, comunque si muovono, sbagliano. Esatto. No, interessante questa analisi di Ugo Traballi, però peraltro poi viene da dire, no, tu citavi il miliardo e mezzo di dollari che comunque consegnano agli egiziani, che ricordiamo è il governo attualmente in carica, è frutto di un colpo di Stato, quindi anche quella consegna degli F-16, se non erro, è stata poi ritardata, l'amministrazione Obama ha avuto qualche motivo di imbarazzo, no, in questo senso. Ugo, se sei d'accordo, voltiamo pagina, andiamo, come dicevo prima, in Tunisia, perché come dire, le due crisi sembrano andare a braccetto, crisi prolungate in cui la soluzione pare veramente molto molto distante. Sì. Faccio brevemente quello che è, insomma, i contorni della crisi tunisina, dove fondamentalmente c'è un'anima islamista e un'anima laica che si combattono. Purtroppo ci sono scappati anche i morti, capo dell'opposizione, molto molto recentemente, però un colpo di scena incredibile a mio parere. Poi pochi giorni fa sono stati interrotti i lavori dell'assemblea costituente e Nahda, il partito islamista al potere, ha detto parliamo. Come leggi questa apertura di Nahda? Paura? Come possiamo leggerla? Ma intanto Nahda diversamente appunto dai fratelli musulmani egiziani, già offriva agli altri di parlarne, certamente con la convinzione di essere la forza più importante, anche come le elezioni del resto avevano dimostrato, certamente da una posizione di vertice, però Nahda già offriva agli altri la possibilità di parlarne. Ora, questi due omicidi, soprattutto il secondo, questi due omicidi eccellenti di laici, probabilmente significano appunto che il caidismo o comunque il salafismo, che in Tunisia è molto più radicale di quanto non sia il salafismo in Egitto, e forse si è bene organizzato, ha mai raggiunto il livello di terrorismo. Però io porrei un dubbio, il dubbio quello tradizionale della cosiddetta strategia della tensione, che non abbiamo inventato noi italiani negli anni 70, è sempre esistita. Sì. Ecco, in tutti, come stiamo vedendo oggi in Egitto, il vecchio regime non è morto, anzi il vecchio regime vive e lotta con noi, come sono tornati al potere in Egitto, così non si capisce per quale motivo non ci possono provare anche in Tunisia. Anche lì c'era il vecchio regime, non erano i militari, era la polizia, era il Mukhabarat, ma sempre vecchio regime, quello che viene definito il deep state, cioè quello stato oltre quello stato in superficie che noi votiamo, che noi scegliamo, quello stato profondo che continua a governare. Ecco, non è detto che invece non sia strategia della tensione, che poi tra l'altro ben si collega anche con quello che sta avvenendo, col parallelismo e col tempismo di quello che sta succedendo in Egitto. Quindi Nahda intelligentemente, comunque chiunque sia stato a fare queste provocazioni, i caidisti piuttosto che il vecchio regime, prende atto di questa realtà, appunto diversamente dall'ottusità dei fratelli musulmani egiziani, e riapre il dialogo, riapre il dibattito. Ma a partire dall'inizio la Tunisia ha avuto un processo comunque diverso. Sì. In Tunisia hanno tentato di costruire la casa dalle fondamenta e non dal tetto, cioè prima votando eleggendo un'assemblea costituente che dovesse scrivere la Costituzione, sì, dopo scritta la quale si andrà alle elezioni delle popoli. Sì. In Egitto hanno cominciato dal tetto, hanno prima fatto la Costituzione. Sì. E poi sono passati alle elezioni e sappiamo come è andata a finire. Sì. Fra l'altro il dibattito proprio su questa nuova Costituzione è stato molto molto acceso e quell'anima laica a cui facevo riferimento prima ha puntato il dito su tanti articoli, il reato di blasfemia e non solo, che poi hanno scatenato anche proteste, hanno scatenato casi giudiziari come quello che ho seguito in questi mesi di Nadia Gelassi, forse gli ascoltatori lo ricorderanno, questa scultrice, questa artista che aveva fatto quest'opera molto controversa sul velo e che ora insomma ha questa mannaia giudiziaria che pende sulla sua testa. Mi perdonerai Ugo se azzardo un altro parallelismo, parliamo di quella che è la minaccia dell'estremismo armato. Da un lato abbiamo la minaccia del Sinai in Egitto e dall'altro questa sempre più consistente minaccia, parlo della Tunisia, lì a sud su quei rilievi montuosi al confine con l'Algeria, dove brigate legate ad Al-Qaeda stanno dando il filo da torcere da giorni alle forze di sicurezza tunisine. Al di là del parallelismo, secondo te questa minaccia, quella dell'estremismo armato lì in Tunisia, è un fattore destabilizzante o secondo te può rimanere confinato lì in quelle remote regioni montuose dove peraltro è quasi inaccessibile ai giornalisti? Io l'ultima volta ho provato ma non c'è verso proprio andare a ficcare il naso. Beh, quello sì, lì è Al-Qaeda o comunque addentellati di Al-Qaeda. È quindi certamente pericoloso, è destabilizzante sicuramente, però è circoscritto geograficamente. È ovvio che se, per esempio, in Sinai hanno potuto allargarsi così proprio per l'assenza della forza pubblica, dei militari e dei poliziotti. Non dimentichiamo che poi nel Sinai c'è anche un limite dovuto alla pace fra Israele ed Egitto, la demilitarizzazione, certo, della penisola del Sinai. I militari non possono intervenire con tutte le forze di cui hanno bisogno perché gli accordi di pace prevedono che non ci possa essere una forza militare più di quanto non sia stato stabilito, quindi insomma tutto è più difficile, però sì, potenzialmente sono situazioni destabilizzanti, quella del Sinai poi in maniera particolare perché fanno di tutto per coinvolgere anche Israele. Però ecco, non credo che siano circoscrivibili sia geograficamente che militarmente col tempo. Grazie Ugo Traballi, siamo quasi in chiusura, ti ringrazio come al solito per la tua analisi, buona giornata, buon lavoro. I titoli di coda di quest'oggi: quindi grazie a Mire Locchetti, Isotta Scenna, che hanno lavorato con me a confezionare questo viaggio di Nessun Luogo Lontano, a Gianmarco Ferronato che lo ha musicato, a voi per essere stati all'ascolto e per aver messaggiato così massicciamente, segno che temi delicati e sensibili come quello dell'immigrazione colpiscono sempre. L'appuntamento è per domani, ore 13:15, quando di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano.